Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Argante, il traghettatore, bentrovati. Cominciamo con il commercio equo e solidale. Sono quasi 82 milioni di euro di fatturato, una forza lavoro donna per il 63% e più di 4.800 volontari. Ci sono 90 organizzazioni che fanno parte di AGCES che presidiano 15 regioni con 200 botteghe del mondo. È un investimento in buona occupazione, come si dice, che ha una grande importanza ed è per questo che è stata depositata in Parlamento una proposta di legge sul commercio equo e solidale firmata da 52 parlamentari di tutti gli schieramenti politici. Domani parte la Pivot Campus Security Manager, che è un'iniziativa della Scuola di Alta Formazione Internazionale Etica e Sicurezza dell'Aquila, un'iniziativa assolutamente originale di grande rilevanza. Ne parliamo col segretario di questa scuola, che è Alberto Carlo Anfossi. Buongiorno Alberto Carlo Anfossi. Dunque, da domani inizia l'avventura estiva della Scuola di Alta Formazione dell'Aquila. Ci racconti Buongiorno come parte? Tutti. Buongiorno. Dovremo traghettare queste idee anche noi. Ecco, bravi. Siamo 118 allievi. Siamo entrati nel nostro terzo anno di attività dal cratere aquilano, siamo riusciti a coinvolgere oltre 10 università, avere un'università capofila anche a Roma che ci riesce a portare avanti le nostre idee, quindi proprio domani mattina ci sono ancora 4-5 posti per chi vuole partecipare al progetto, all'università Link Campus University in via Nomentana 335. Parte domani mattina il nostro traghetto della scuola per fare due campus estivi nel mese di luglio e di agosto, proprio per vincere questa gara Expo 2015. Siamo sicurezza AAA, quindi ambientale, aziendale e alimentare. Alimentare poi il tema dell'Expo 2015, ma va visto proprio come rinascimento, come ripresa del nostro paese, non soltanto di Milano, di tutta l'Italia, e anche un discorso un pochettino a largo raggio. Meglio di me, ci sono già dei progetti, sono 118 allievi ed ex allievi della nostra scuola che sono pronti a prendere le idee, e poi l'onorevole Riccardo Garosci le presenterà a Portofino l'11 settembre alle ore 11, 11 anni dopo il dramma delle Torri Gemelle, proprio per creare una nuova generazione Gran Zero. Ecco, abbiamo 11... un allievo d'eccezione, sì. Un allieve senior, è un presidente di categoria, Domenico Costante, che ieri faceva proprio il suo compleanno e come regalo farà il capo progetto, raccoglierà tutte le idee. Ne abbiamo già 10 diverse, se le interessa, soltanto per incanalare. Sì, qualcuna, giusto per citarla, prego, velocemente. Allora, sì. Stiamo dicendo come tutelare e vigilare un grande evento universale. Quindi, voi vedete il patrimonio artistico, capite meglio di me che l'Italia è bella, più bella del resto del mondo, va vista tutto, non sempre è facile tenere tutto aperto, tutto accessibile, allora anche qui ci vuole una collaborazione tra pubblico e privato. Capite meglio di me che se il tema è nutrire il pianeta, la gente vorrà mangiare anche non soltanto i soliti piatti locali, ma avere anche una sicurezza alimentare a 360 gradi di ogni parte del pianeta, altrettanto importante. Capite meglio di me che la gente vorrà festeggiare, celebration, vogliamo ripartire, un nuovo rinascimento. E un nuovo rinascimento vuol dire anche potersi muovere bene, anche le fasce più deboli, i ragazzi, gli anziani, le donne. Quindi non è possibile avere dei trasporti, degli eventi, dei festival, dei momenti musicali dove non c'è abbastanza sicurezza. E anche lì va tutelato e va vigilato. Quindi noi siamo pronti a fare queste gare, a fare queste sfide e ad ascoltare delle persone attente come sono i vostri ascoltatori per dei progetti. Per quello 118 allievi sono security manager o neolaureati, quindi sono provisional nel mondo dell'etica e della sicurezza. Bene. Che quest'estate prendono del tempo. Prendono del tempo e fanno due campus estivi all'Aquila per costruire qualche cosa. Bene, segretario, grazie. Sottolineiamo ovviamente che stiamo parlando dell'Aquila e tutte le cose che avvengono all'Aquila hanno decisamente un sapore, una rilevanza, un'attenzione speciale. Grazie e complimenti all'Alberto Carlo Anfossi. Alla prossima, segretario. Grazie e auguri. Concludiamo con una notizia che arriva da Trento, dove il comune, la provincia e la distribuzione organizzata a Trentina hanno organizzato la settimana provinciale degli ecoacquisti, da domani fino al 15 luglio, sconti, punti, tessere, iniziative di vario genere in natura, ma soprattutto 17 banchetti informativi per come dire, l'educazione all'eco acquisto. È tutto per oggi, vi ricordo di cliccare in ferribot-radio24 su Facebook. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Valeria Bernardi in regia. Alla prossima.